Achtung, Liebfrau Milch in Porsche. Um paar Vorsprung durch Technik. Donne und Blitzen, britischer Architekt. Tomorrow belongs to me. Buonasera e ben ritrovati a questa ultimissima, lo giuro, lo prometto, puntata del 2017 di Mighty FM. Chi vi parla e vi fa compagnia e vi perseguita anche in mezzo alle feste è sempre Claudia Matimau dagli studi di Radio Kairos presso il TPO di Bologna. Come avevamo preannunciato, la doppia puntata sulle migliori canzoni dell'anno, partendo dalla classifica dei 100 pezzi migliori stilata da Pitchfork e poi filtrata e scremata secondo i nostri gusti. E la seconda puntata appunto ha luogo oggi, dopo la prima della settimana scorsa. Ci siamo spinti un po' più in là del solito quest'anno e partiamo appunto, l'altra volta ci eravamo fermati al numero 45, finendo in bellezza con Perfume Genius, e iniziamo altrettanto in bellezza partendo dalla posizione 44 con il grandissimo ritorno di Fever Ray con il suo album Plunge. Questo è stato il primo singolo, To the Moon and Back. Come in altri casi, ci sono degli artisti che hanno due canzoni nella classifica, in alcuni casi le abbiamo mixate insieme, in alcuni casi abbiamo fatto una scelta, infatti come nel caso di Perfume Genius, King Cruel per esempio, che ascolteremo più tardi, ma invece in questo caso abbiamo deciso di mischiare insieme To the Moon and Back e facendo un salto in avanti al 19° posto, la seconda canzone giudicata da Pitchfork come meritevole di far parte di questa classifica, ovvero IDK About You, e ce l'ascoltiamo tutte e due. Pezzo davvero euforico che in questa base musicale ricorda moltissimo Silent Shout dei Knife. Un video molto forte, a giudizio anche dei pruriginosi americani. È un pezzo anche molto queer. E non è l'unico contenuto nell'album Plunge. La frase incriminata, tra virgolette, che viene sempre citata in tutte le recensioni. E questa qui. I want to run my fingers up your pussy, canta Karin Dreyer. Come scrive Pitchfork nel testo dedicato a questa canzone, questo è uno dei pezzi, come altri dell'album come This Country, che è molto queer e che dichiara che appunto la liberazione inizia nella camera da letto. And every time we fuck, we win. Let's find out what you are about. What's hidden in there? What IDK About You, ovvero I Don't Know About You, che vede la partecipazione di Nidia, giovane producer portoghese. L'abbiamo ascoltata, ma non vista purtroppo, nella puntata dedicata al Line Check. E direi che anche l'influenza di questi suoni africani è qualcosa che anche le veniva da suo fratello, che col suo pseudonimo di Oni Ayun ha pubblicato dei pezzi di musica elettronica stile nigeriano. I suoni che vengono dall'Africa sono sempre più presenti anche nelle produzioni di artisti bianchi europei. E come ho detto l'altra volta, in questa classifica abbiamo privilegiato le femmine, non tutte tutte, quelle che ci piacciono, però ho notato che c'è veramente un aumento significativo. Quindi è anche molto bello vedere, insomma, una della vecchia guardia, tra virgolette, come Karin Dreyer, che si affianca con una delle nuove leve come Nidia. E l'altra volta abbiamo detto che abbiamo fatto delle comparazioni multiple delle varie classifiche, e quindi siamo anche andati a vedere dove figurava l'album contenente questi pezzi nella classifica di Pitchfork. E infatti si trova Plunge addirittura al numero 9, e poi anche a vedere in che posizione si trovano questi album nella classifica delle classifiche. Io adesso ho dei dati che non sono aggiornati, perché come ho detto l'altra volta stavano ancora conteggiando delle classifiche, quindi dei punteggi e dei voti. Quindi last time I checked, Plunge era al 22esimo posto nella classifica generale. E poi abbiamo fatto anche un altro paragone, siamo anche andati a vedere la classifica dei 20 migliori video di sempre di Pitchfork, e al numero 6 dei migliori video c'era appunto IDK About You o To The Moon and Back, chissà. E finisce questa doppietta, siamo partiti dal 44, ci abbiamo accoppiato la 19, ma torniamo alla 43 con appunto una delle novità, nuove leve, molto giovane, bedroom pop, lo-fi pop. Si tratta di J-Som. Questo pezzo si chiama The Bus Song. Questo pezzo mi è venuto in mente Jane Says dei Jane's Addiction, ma lei, J-Som, appunto il nome d'arte di Melina Duterte, giovane californiana di origini filippine, che è cresciuta suonando la tromba, poi voleva frequentare il programma del conservatorio dedicato alla musica jazz, ma invece ha deciso di concentrarsi sulla scrittura, sul songwriting, e ha avuto degli ottimi risultati. Infatti, dopo aver registrato il suo primo disco nella sua cameretta, che si chiamava Chan Into, ha poi pubblicato un seguito quest'anno, Love L'album si chiama Everybody Works, al numero 26 per Pitchfork, al numero 44, quindi dentro la classifica dei migliori 50 album per tutti, facendo una media insomma di tutte le classifiche dei media specializzati. Una giovane cantautrice che ha scelto questo nome, J-Som, che significa luna della vittoria, e l'ha trovato da un generatore di nomi per bambini online, immagino filippini, e che ha dichiarato di ricevere molta ispirazione dalla musica di Phil Elverum, e lo ascolteremo più in là, Mount Eerie, in questa classifica. E per intanto finisce questo pezzo molto carino di J-Som, The Bus Song. Come dicevo, ci sono diversi artisti che hanno più di un pezzo in classifica, quindi in teoria, no in teoria, in realtà al 42 c'è The Louvre di Lord, ma non l'ascoltiamo. Siamo passati alla 41 con una band, una punk band americana, sono i Priests, i Preti. Il pezzo si chiama Nothing Feels Natural, l'album omonimo, stesso titolo, al 25 nella classifica degli album per Pitchfork, quindi affiancata a J-Som, come lo è praticamente il loro album affiancato a quello di J-Som nella classifica generale, numero 46. Per questa band formatasi nel 2012 di Washington DC, con alla voce Katie Ellis Greer, batteria Daniele Daniele, e poi bassista Taylor Mullitz e seconda chitarra GL Jaguar, o prima chitarra, unica chitarra in realtà. Dal 2012, dopo 4 EP, finalmente il debutto EP, o 45 giri, insomma cassette, quest'anno il debutto appunto con l'album che porta la stessa il stesso titolo della canzone, Nothing Feels Natural. E questo ha un suono insomma di indie rock un po' dannata. Pezzo che parla dell'impossibilità di comunicare chiaramente sia come artisti che come persone, cosa resa difficile quando sei sepolto, sommerso da crisi politiche e personali. E Pitchfork ci dice che Saf Rock e Cure in parti uguali. Call me. J-Som, The Priests e anche questo pezzo non lo conoscevamo, ma perlomeno conoscevamo l'autore. Negli altri casi appunto stiamo scoprendo anche nuovi artisti emergenti molto interessanti. Questo è uno del forse 60 su 100 o comunque più di 50 pezzi R&B o rap della classifica di Pitchfork. Ho detto l'altra volta come siano molto molto concentrati su questa scena, secondo me anche un po' mancando un po' l'obiettivo e magari proponendo e spingendo contenuti anche un po' a volte discutibili o perlomeno che dovrebbero essere superati, tipo l'oggettificazione delle donne, eccetera. Questo è Tyler the Creator featuring Frank Ocean and Steve Lacy. Il pezzo si chiama 911/Mr. Lonely, un pezzo dove Tyler semplicemente parla della sua solitudine, di quanto si sente solo, che può fare un sacco di cose, andare in giro, la corsa con le sue macchine, che appunto sia, pare che sia un'attività frequente quando fanno i soldi, comprarsi un sacco di macchine tipo Lamborghini, Porsche, così, ma in definitiva sentirsi solo anche quando ci si esibisce davanti ad a tantissima gente per un concerto sold out, migliaia di persone. Nothing without you shotgun in the passenger. I'm the loneliest man alive, but I keep on dancing and throwing off. I'm gonna run out of moves. Sono l'uomo più solo sulla terra, the loneliest man alive. They say the loudest in the room is weak, that's what they assume, but I disagree. I say the loudest in the room is probably the loneliest one in the room. Attention seeker, public speaker, oh my god, that boy there's so fucking lonely. Writing songs about these people who do not exist, he's such a fucking phony. One thing I know is that questo pezzo 911/Mr. Lonely è contenuto in un album Flower Boy che Pitchfork ha messo al numero 8 nella classifica dei migliori album dell'anno, mentre la media delle classifiche di tutti i media specializzati lo mette al 15° posto. Feeling it for so long, I don't even know if it's shit I enjoy. Current back door as an at door. My partner is a shat door. Need love, do you got some I can borrow? Fuck it, I can find some tomorrow. But that never comes, like a vasectomy, what have I done? I got the talent, the face, and the funds for myself long ago, but I haven't found some. One, mirror, mirror on the wall, the loneliest of them all. Cupid acting stupid, do you got another number I could call? Never had a pet, I never had a pet. There's more fish in the sea, but I never had a goldfish to begin with. I never had a dog, so I never been good with bitches, cause I never threw a ball fetch. I never had a pet, that's where it stems from, I bet. Treat me like direct deposit, checking on me sometime. Ask me how I'm really doing. Infatti prima, per colpa dei miei appunti sbagliati, al sesto posto della classifica dei migliori video c'era To The Moon and Back. Infatti neanche sapevo che esistesse un video di IDK About You, ma sta finendo appunto questo pezzo di Tyler the Creator. Vabbè, questo non c'è bisogno di presentazioni. Beh, in mezzo al 39° c'era uno dei quattro pezzi in classifica di Kendrick Lamar, ovvero Love. E al 38° abbiamo un pezzo che abbiamo ascoltato non molto tempo fa qui a Mighty FM, ovvero della nostra beneamata beniamina Charlotte Gainsbourg. Numero 38. Tratto dal suo album Rest, su cui abbiamo fatto una lunghissima monografia appunto qualche settimana fa, che Pitchfork ha messo l'album al 17° posto e invece la media delle classifiche di tutti i media musicali lo metteva al 22°, anzi no, al 22°, cosa dico, 22 punti, quindi fuori dai 50, diciamo honorable mention. Ma potrebbe adesso avere una posizione diversa, per esempio quando ho controllato l'altra volta al 50° posto c'era Kathleen Aurelia Smith, due giorni dopo c'era un Ride for the Riff Raff, adesso c'erano gli Spoon, ma insomma sono più o meno tutti lì, anche Paramore. Questo è sicuramente uno dei pezzi dell'anno, ma tra i primi tre forse per me. Faccio sempre molta fatica a fare delle classifiche, infatti per fare la mia, insomma, insieme di pezzi dell'anno ne ho scelti un centinaio, così, senza scontentare nessuno. Ah, non abbiamo detto neanche il titolo, Deadly Valentine, uscito a fine settembre in anticipazione dell'album, accompagnato da un video di cui abbiamo anche lungamente parlato, dove c'è lei in diverse fasi della vita, da bambinetta, adolescente, donna adulta e anziana. Le bambine sono, bambina, ragazzina, le sue figlie, il suo partner di lei, che ovviamente interpreta la donna adulta, è Dev Hines, Blood Orange, per questa corsa continua di tutta la vita verso la chiesa, verso un'unione, verso un matrimonio, facendo riferimento appunto alla vita di Charlotte, da 26 anni con il suo compagno Ivan Attal, senza essersi mai sposati. Infatti la canzone ripete come in loop o boucle, come dicono i francesi, delle formule di voti nuziali abbastanza poi antiquate. E musicalmente c'è tutta una citazione da Moroder a Jean-Michel Jarre, per esempio, io ci sento anche. Ad opera di Sébastien, appunto l'abbiamo nominato mille volte nella trasmissione, giovane producer della Headbanger Records, quindi Justice, Mr. Oiseau, diciamo tutta la seconda ondata del French Touch dopo Daft Punk. Ecco, questa è la parte che mi ricorda un po' 2001 di Odissea nello spazio. E gli archi invece arrangiati e diretti da Owen Pallett. Di questo pezzo esiste anche un remix fatto dai Soulwalks, che abbiamo ascoltato insieme alla versione originale in trasmissione. Esiste anche una versione più breve di questo pezzo, ma noi abbiamo tenuto quasi tutta la versione originale perché siamo abbastanza dipendenti. Ma è finita, siamo passate ad un'altra grandissima scoperta, le IBI, sorelle franco-cubane. Io conoscevo solo di nome, forse avevo ascoltato qualche pezzo, mi sono messa a metà ottobre ad ascoltare bene il loro nuovo album Ash ed è bellissimo. Sweet. di tutti i bellissimi pezzi che sono in questo album, tipo I Wanna Be Like You, Away Away. O anche No Man Is Big Enough For My Arms, con il campionamento del discorso di Michelle Obama sul livello di civiltà di un paese che si misura da come tratta le sue donne e le sue ragazze. Pitchfork ha scelto Deathless, che vede la partecipazione di Kamasi Washington, 37esimo posto per questa canzone, mentre l'album Ash è al numero 28, sempre per Pitchfork. Leggo da Wikipedia che le IBI sono un duo franco-cubano di sorelle gemelle, Lisa Kainde Diaz e Naomi Diaz, e tra parentesi c'è scritto, ve lo giuro, entrambe di 22 anni, sorelle gemelle che hanno la stessa età, incredibile. Adesso lo correggo immediatamente, perché la stessa parola, infatti, IBI o IBG, forse è la pronuncia, significa gemelli nella lingua africana Yoruba, una delle lingue in cui loro cantano, oltre all'inglese, francese e lo spagnolo. Origini Cuba, Francia, ma anche Venezuela. E questo è il secondo album dopo l'esordio con l'album omonimo del 2015, e questo Ash è veramente meraviglioso. Come un altro disco meraviglioso è A Romanticism di Moses Sumney. L'avevamo citato nell'altra trasmissione dicendo che già in posizione in alta classifica, ovvero bassa classifica, era presente all'80esimo posto con questo pezzo, Quarrel, che noi abbiamo voluto mettere insieme al pezzo che invece è al 36, ovvero Doomed. Abbiamo potuto vederlo dal vivo al Line Check, è stato veramente, cioè, un'apparizione. Bellissimo, bravissimo, e fa qualcosa veramente di estremamente originale, una visione tutta sua, incredibile. Sumney, originario di San Bernardino in California, 10 anni, va a vivere in Ghana, adesso credo a Los Angeles, e un suo album A Romanticism, quindi A romanticismo, alfa privativo, un disco sull'anaffettività e la solitudine, anche l'incapacità di provare dei sentimenti di amore, sesso, sì, ci sono diversi pezzi che fanno riferimento ad attività fisiche ma senza nessun coinvolgimento emotivo, sentimentale, quindi un distacco che comunque non è senza conflitto. Infatti nel pezzo Doomed che arriva adesso lui si chiede: ma se il mio cuore non sente, se il mio cuore non prova niente, significa che sono maledetto? Se il mio cuore è pigro, io sono vitale, sono vivo, sono maledetto. Adesso vedo che il pezzo è stato scritto da Matt Oro e Moses Sumney, e chissà se è Matthew Oro dai synth, potrebbe essere, sarebbe una grande coincidenza, un altro Matthew Oro come la metà dei Magical Clouds, lo scopriremo. C'è un disco molto bello che contiene altri pezzi molto belli, i miei preferiti sono Indulge Me e Make Out in My Car, per un album che è stato molto anche apprezzato per Pitchfork, addirittura al sesto posto dei 50 migliori dischi dell'anno, classifica invece generale al 28esimo. Arrivate ad un'altra novità, un'altra donna giovane emergente, Georgia Smith, inglese, classe 97, quindi ha 20 anni adesso. Ha fatto questo pezzo che si chiama On My Mind, quindi Georgia Smith On My Mind, Georgia On My Mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind, don't want to feel you. Don't want you on my mind, don't want to feel you. Don't want you on my mind, on my mind, on my mind, mind, mind, mind. Why not? Would I leave if you were everything I wanted you to be? Dall'anno scorso ha pubblicato diversi singoli, tre nel 2016 e tre quest'anno, cui appunto l'ultimo è questo On My Mind con Predator, un producer che ha fatto la musica, e riprende proprio le origini del dubstep. UK Garage, Soul, Neo Soul, R&B, Jazz, che è molto molto caruccia, devo dire. Figlia d'arte, suo padre faceva parte di un gruppo, Neo Soul, lei che ha studiato come vocalist, in classically trained as a vocalist. E che è stata presentata, insomma, fatta conoscere ad un pubblico molto più vasto grazie a una sua doppia apparizione nell'album di Drake, More Life, addirittura con un pezzo che porta il suo nome, Georgia Interlude and Get It Together. Trentacinquesimo posto per Pitchfork, non è proprio il nostro genere musicale, ma non ci dispiaceva, appunto, soprattutto perché è una giovane musicista emergente. E anche ho visto il video, che non era male, nel senso che perlomeno non c'era la solita immagine della femmina, insomma, dei video rap, R&B, eccetera, ma lei mi sembrava appunto abbastanza in control. E al 34esimo posto c'è un pezzo che in origine è molto molto lungo, noi abbiamo ridotto, beh, non di tanto, abbiamo lasciato 6 minuti, anche questo è un grande ritorno quest'anno, LCD Sound System con American Dream, ovvero James Murphy. Questo pezzo è How Do You Sleep, una vera e propria, no, non lo so, potrebbe essere la summa di non si sa quante sedute dall'analista, o forse appunto basta una canzone alla fine di 9 minuti per mettersi il cuore in pace e chiudere una questione, una ferita aperta. Queste percussioni molto alla Joy Division. Come fai a dormire la notte? Questo che chiede James Murphy al suo ex socio della DFA Records, ovvero Tim Goldsworthy. You won't live out the code. abbiamo detto l'album American Dream, grande ritorno di quest'anno, numero 12 per Pitchfork e addirittura numero 4, i migliori album dell'anno per la media tra tutte le classifiche dei media specializzati. Relazione sia personale che lavorativa, insomma, si è cominciato a deteriorarsi già nel 2001, quando appunto Tim Gosworthy di colpo così lascia New York per tornare nel Regno Unito senza dire niente a James Murphy o all'altro socio Jonathan Galkin. Nel 2013 è stata anche un'azione legale di Murphy e Galkin in cui chiedevano un risarcimento di circa $95,000. E questa canzone appunto c'è come un amante abbandonato, tradito, ingannato. Cioè, mi ricordo quando eravamo amici, mi ricordo che ti chiamavo mio amico, mi ricordo ancora, litigavamo e ridevamo, me lo ricordo ancora. Non ti preoccupare, tutto quello che ti entra in tasca te lo prenderai, avrai quello che ti spetta. Molto pesante, addirittura dice mi hai messo in guardia sulla cocaina, poi ti ci sei buttato. E se ti vedessi sarebbe come se non fosse successo niente. Se ci incontriamo di nuovo domani, sarebbe proprio come se niente fosse andato storto. Capisco quando magari tu sai di una canzone che fa riferimento a una situazione, a una persona, però magari in frasi un po' ambigue, allusive eccetera, questo è veramente più chiaro e diretto di così. Non si può, quindi forse dopo l'uscita della canzone io chiederei a Tim Gosworthy se riesce a dormire di notte, ma cambiamo completamente tenore, siamo arrivati al numero 30. Ebbene sì, quello che manca poi sembra paradossale, alla fine in queste classifiche c'è l'elettronica, c'è il rap, c'è l'indie, c'è l'americano eccetera, ma un po' di bel sano pop. Ciao Anna sull'isoletta che sta ascoltando adesso, perché questa è la sua canzone preferita. Carly Rae Jepsen, canadese, che abbiamo tutti conosciuto grazie a Call Me Maybe e poi un album Emotion nel 2015 che è stato proprio lodatissimo dalla critica, ma io non mi ci sono mai messa ad ascoltarlo. Play, play, play, poi quest'estate questo singolone Cut to the Feeling. E chi scrive sulla scheda su Pitchfork dice: ma come mai, chi ha permesso che questo pezzo rimanesse fuori dal disco Emotion del 2015? E io dico, beh, forse perché ancora non era stata scritta, chissà. E finisce Cut to the Feeling, questo pezzo così trascinante, energetico, allegro, che esprime questa sensazione così di euforia. Invece adesso arriviamo ad un pezzo che per me è... sono arrivata ad amarlo poco a poco, fino a poi a amarlo spassionatamente. Infatti si chiama Love, che invece appunto descrive lo struggimento, ma anche un po' la noia, oppure questa aspettativa di qualcosa, la nostalgia del futuro, la chiamavo io, di quell'età quando sei giovane e aspetti qualcosa con emozione, anche se una semplice uscita con i tuoi amici in un giorno qualunque. E infatti Lana Del Rey canta: ti prepari, ti metti tutto in gingheri per andare in nessun posto in particolare, perché sei giovane ed innamorato. Che è tutto quello che basta. Che io non ho mai avuto tantissima simpatia all'inizio, non avevo simpatia, poi non ho mai avuto tantissimo interesse per Lana Del Rey, ma questo pezzo è veramente bello. L'album è Last for Life, citazione, numero 32 per Pitchfork, non è tra i primi 50 per tutti gli altri. Nessun posto in particolare, magari stai andando semplicemente al lavoro o semplicemente al bar, ma non ha importanza perché basta essere giovani e innamorati. È bello poi quando c'è il passaggio tra il parlare di un'altra persona e invece poi passare alla prima persona. Fa poi. Del Rey, ovvero Elizabeth Woolridge Grant, newyorkese, ma che poi invece ha interpretato, interpreta proprio la West Coast, la California, il lungo oceano Pacifico, Hollywood, tutto questo immaginario qua, anni 50-60, si è creato questo personaggio e lo abita molto bene. una lunga gavetta, tra l'altro, prima di diventare a noi conosciuta. Ha iniziato già nel 2008 con uno pseudonimo, sì, insomma, praticamente il suo nome, insomma, Lizzy Grant, e poi il grande successo nel 2012 con Born to Die. Ecco, e questo è un altro pezzo che fa veramente piangere. Mannaggia. Cioè, messi insieme una cosa mortale. L'avevamo già ascoltato qui a Maite FM, l'abbiamo ascoltato per la puntata dedicata al Primavera Sound Festival, dove siamo riusciti, anche se c'era una sovrapposizione antipatica con Mitski, siamo riusciti a sentire anche questo pezzo. No one knows me like the piano. Nessuno mi conosce come il pianoforte a casa di mia madre. Something some people call a soul. And you drive top the sky. Oh, you arrived when I was 3 years old. Stiamo ascoltando Sanfa, ovvero Sanfa Sisai, londinese, anzi di South London, Morden, dove c'è il capolinea della Northern Line. Noi l'abbiamo conosciuto già anni fa per un bellissimo remix di Basic Space dei XX, perché questa è la famiglia in cui è cresciuto, quella della Young Turks. E poi collaborazioni sempre più importanti, da Subtract, Jesse Ware, Drake, Kanye West, Solange, e poi finalmente, dopo due EP, nell'arco di 5 anni, anzi sì, 4 anni, finalmente il debutto quest'anno con il suo album Process, con cui ha vinto il Mercury Prize. Process, il processo dell'elaborazione del lutto, della perdita di sua madre, quindi questo pezzo che parla della sua infanzia, quando da piccolissimo ha cominciato, ha imparato a suonare su quel pianoforte a casa di sua madre. They said that is her time, no, tis inside. I kept the feelings close. Prima di questo pezzo un altro singolo, il primo singolo che è uscito già nel 2016 era Blood on Me, infatti figurava già nella classifica dei migliori pezzi del 2016. E questo è veramente bellissimo. Per un album che appunto è al numero 15 per Pitchfork, ma al numero 7 per la classifica delle classifiche. E ovviamente, avvicinandoci alla parte alta della classifica, troviamo degli artisti i cui album poi, insomma, sono stati tra i migliori dell'anno. Quindi se Lana era al 28, Sanfa al 27, al 25 troviamo Alejandro Gersi, ovvero Arca. Il pezzo è Desafio, l'album omonimo quando l'abbiamo ascoltato l'ultima volta in trasmissione era per Club to Club, dove ha fatto una performance veramente incredibile, e avevamo detto di come lui sia stato convinto a cantare nei suoi pezzi e poi anche cantare in spagnolo da Bjork, con cui sappiamo questi ultimi anni e anche per l'ultimo album ha stato insomma suo principale collaboratore. Tra Sanfa e Arca c'è uno dei due pezzi di Kelela, ascolteremo il secondo, quello più in alto in classifica. Anche lei insomma ha avuto veramente grandi gratificazioni da quest'anno. Il pezzo era LMK, Let Me Know, e invece noi stiamo ascoltando Desafio. Quanto di più simile ad una pop song, una love pop song può fare Arca. Temi sempre presenti, l'amore, ma ancora di più il sesso, la morte. Lui ha tutto un immaginario che appunto dispiega anche dal vivo di sadomaso, di cinghie, di pelle, di stivali, di tacchi, di, anche in questo video viene picchiato, trascinato, maltrattato, circondato da questi uomini in questa foresta nebbiosa che vengono definiti spiriti nella scheda del video. New York is in New York without you, love. So far in a few blocks to be so low. E al 24 c'è Annina Clark. Anche questo primo pezzo attesissimo in anticipazione di Mass Seduction. La bellissima, semplice, misurata New York, dove si parla di una persona che non c'è più e che per lei rappresenta la città, questa città che è diventata insomma un po' insopportabile perché ogni cosa ricorda questa persona che non c'è più. Io al primo ascolto ho notato questo riferimento alle sue avventure, un riferimento secondo me molto chiaro a Cara Delevingne. Ho perso un eroe, ho perso un amico. Hero, friend, motherfucker, tutti termini che non fanno capire il genere di questa persona. Dicevamo, anticipazione di Mass Seduction, numero 22 tra i 50 migliori album dell'anno per Pitchfork, numero 5 per la classifica generale, e questa canzone in particolare numero 8 nella classifica dei migliori video di Pitchfork, anche se a me il video non è piaciuto molto, ma la canzone invece ha emozionato tantissimo fin dal primo momento. è una grande scoperta, sempre giovanissima e femmina, al 23° posto, Yaeji, coreana ora di base a New York. Kathy Yaeji Lee, nata nel 93, anzi Wikipedia ci dice che è Korean American, quindi famiglia coreana ma di nascita statunitense, per questo stile che mischia elementi di house e hip hop con un ritmo così morbido, mellow, polleggiato diremmo noi, soprattutto appunto in questo cantato così calmo dove lei passa dall'inglese al coreano. Questo pezzo si chiama Drink I'm Sipping On e è contenuto nel secondo EP pubblicato da pochissimo a novembre, chiamato semplicemente EP2, sì, perché ha fatto il primo omonimo, diciamo, primo EP e poi il secondo EP2, tutte e due quest'anno, e messi insieme Pitchfork li considera un album e l'ha messo al 50° posto come appunto album migliore dell'anno. E poi c'è un altro pezzo tratto da questi EP, Last Breath, che invece ha messo al 18° posto nella classifica dei migliori video. Video da vedere soprattutto perché lei ha un physique du rôle assolutamente diverso da quello della, diciamo, star, cantante, artista, soprattutto di questa scena R&B, rap, hip hop. Ragazzina normalissima, occhialuta, e quindi ci sembra anche molto refreshing, come dire, che ci siano queste nuove leve di femmine producer, artiste che non devono per forza avere un'immagine figa o luccicante o essere, ne so, di base come prerequisito di bella presenza, come si diceva un tempo. E un'altra grossissimissima scoperta, questo inizio da Nirvana, l'abbiamo citata forse l'altra volta, Niloufer Yanya. Voce particolarissima, anche lei appunto essendo una, diciamo, newcomer, un nome nuovissimo, è interessante vedere che figuri in questa classifica con due pezzi. C'era già al 64° posto con Golden Cage, e la ritroviamo al 18° con questo ultimo singolo pubblicato da poco, si tratta di Baby Love. Nilüfer, che significa giglio d'acqua in turco, è londinese, 22 anni, origine turca evidentemente, ma anche creola, bajan e irlandese. mischia diversi stili in modo veramente interessante. Per 2 anni il suo insegnante di chitarra è stato Dave Omoku, l'abbiamo nominato l'altra volta come collaboratore di Jesse Ware, cantante degli Invisibles. Già, insomma, dal vivo nel Regno Unito ha fatto da opening act per i Broken Social Scene. Da questo stile lo-fi, ma molto soul. Sono dei pezzi dove sono tantissime che influenze jazz. Ha esordito l'anno scorso con un singolo Small Crimes e poi un EP quest'anno dal titolo Plant Feed, che conteneva il pezzo appunto al 64esimo posto, Golden Cage, e adesso questa Baby Love, di cui c'è anche un video. Do You Like Pain? Poi interessantissimo, se volete andare a cercare sul suo SoundCloud una cover veramente molto interessante e veramente molto originale dei Pixies, di Hey dei Pixies. E al 17esimo posto troviamo Adam Granduciel, ovvero The War on Drugs, con un pezzo, Thinking of a Place, che dura più di 11 minuti e che è stato prima pubblicato come doppio singolo con una parte 1, una parte 2. Noi abbiamo preso la parte 2 e l'abbiamo un po' editata, ma comunque come è fatta la canzone, come suona la canzone, si può sentire lo stesso. L'album A Deeper Understanding, numero 11 per Pitchfork, è addirittura numero 8, quindi tra i migliori 10 album dell'anno per la media delle classifiche dei media, la media dei media specializzati. Sì, adesso viene sempre definito il progetto di Adam Granduciel, ma venne creato nel 2005 da lui e da Kurt Weill. Primo album nel 2008, One Gone Wild Blues, e poi diciamo la consacrazione del successo con Lost in the Dream del 2014, quando l'abbiamo conosciuta anche noi. È proprio stile classico americana. Pitchfork dice che Questo pezzo non racconta una storia d'amore in senso tradizionale, ma invece approccia l'idea di trascendenza da diversi punti di vista. L'amore è un fantasma che sfugge alla nostra presa e gli amanti si sciolgono completamente l'uno nell'altro, e pensare ad un posto, pensare ad un luogo è abbastanza da renderlo reale. E siamo arrivati al numero 15, siamo arrivati a Björk, siamo arrivati a The Gate. L'elaborazione del lutto e la perdita per la fine della lunghissima relazione con Matthew Barney. Questo pezzo, The Gate, Björk esordisce dicendo che la sua ferita sul petto, guarita, si è trasformata in un portale da cui io ricevo amore e da cui io do amore e tengo a te. Questo pezzo enfatizza la sua pronuncia dell'inglese così particolare, diviso in molte parti, spezzettato, sì, raggi di luce spezzettati in prismi che si riuniranno se tu ti preoccupi di me, ti occupi di me. E io mi occupo di te. The Gate, tratto da Utopia, numero 20 come miglior album per Pitchfork, più o meno la stessa posizione, adesso 20-21. per tutti gli altri media specializzati, mentre è al numero 1 nella classifica dei 20 migliori video dell'anno. E direi che forse appunto il pezzo non si può separare dal suo video, e appena ho visto proprio i primi fotogrammi ho capito che è di Andrew Wang, che già in passato ha fatto diversi video per Björk, visionario, coloratissimo lui proprio. Self-sufficiency, my silhouette is over. It is a gate. I can care for you from. Sono molti i dischi quest'anno che parlano di perdita e di lutto, artisti che avevano già una loro produzione generalmente, ma che gli eventi della vita li mettono davanti all'esigenza insopprimibile di concentrare il proprio lutto in un lavoro artistico, ed è quello che è successo a Phil Elverum, che abbiamo nominato prima in relazione a J-Som, ovvero Mount Eerie. Il suo album A Crow Looked at Me parla tutto della morte, e soprattutto questo pezzo, 14° posto, che si chiama Real Death, morte vera, non la morte di cui si parla, si teorizza in modo astratto, ma la morte reale. E la morte reale è stata quella della giovane, bella moglie di Phil Elverum, Genevieve. Una canzone che ha scritto pochi giorni dopo questa perdita, dove ricorda degli eventi, come il fatto che dopo la sua morte sia arrivato a casa un pacchetto. Crusted with tears, catatonic and raw, I go downstairs and outside and you still get mail. Dice, io sono distrutto, sono catatonico, sono annientato. Una settimana dopo la tua morte tu continui a ricevere posta e ricevo un pacchetto con sopra il tuo nome, di una cosa che avevi ordinato in segreto, un regalo per nostra figlia, uno zainetto per quando avrebbe iniziato ad andare a scuola, perché tu guardavi avanti, guardavi al futuro. Guardavi ad un futuro che probabilmente dentro di te sapevi che non avrebbe incluso anche te. E io lì sul portico con questo pacchetto in mano semplicemente collasso e non voglio imparare niente da questa cosa. Ti amo. Così semplice. Listen, seeing you got ritualistic, cleansing my soul of addiction for now, 'cause I'm falling apart. L'album di Mount Eerie, A Crow Looked at Me, numero 14. Per Pitchfork numero 12, per tutti gli altri siamo arrivati a Passion Fruit, anche questo pezzo ascoltatissimo in radio, infatti è stata l'unica occasione in cui anch'io l'ho potuta sentire, e mi piace molto perché Drake fa delle belle canzoncine, secondo me sempre molto, questo pezzo è molto, molto delicato, molto carino, L'album è More Life, numero 38 per Pitchfork, numero 39 per tutti gli altri. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no. Pitchfork dice che forse questo pezzo proprio è la summa del suo suono, del suo stile. Listen, harder building trust from a distance. I think we should rule out commitment for now, cause we're falling apart. Leaving, you're just doing that to get even. Don't pick up the pieces, just leave it for now. They keep falling apart. Passionate from miles away, passive with the things you say, passing up on my always, I can't blame you, no. Una canzone dedicata ad una ex, questo tono così è il tono un po' del rimpianto. Che invece della solita immagine, insomma, del maschio che magari vuole riconquistare o che non accetta appunto il distacco, lui dice no. Non posso prendermela con te, non posso biasimarti. Questo pezzo, Passion Fruit, è il 12° posto, l'album, vi ho detto, More Life, dove c'è un bel signore col baffone proprio fine anni 70, chissà se è il papà di Drake, bel signore, bel figliolo, d'altra parte lui è bello. All'11° posto c'è il terzo pezzo di Kendrick Lamar, Humble, che non mettiamo, e arriviamo al 10°. Per una delle poche presenze di puro pop in questa classifica, e Charlie XCX è proprio una delle artiste più puramente pop di questi ultimi anni. E questo pezzo si chiama semplicemente Boys, dove lei dice, si rivolge ad un'amica, dice: guarda, mi dispiace che mi sono persa la tua festa, sì, volevo venire, ma poi mi sono persa via perché stavo semplicemente sognando, fantasticando di ragazzi. Anzi, I was busy thinking about boys, facendo credere che poi seguissero, insomma, anche delle azioni a questi pensieri. Charlie XCX, ovvero Charlotte Emma Hutchinson, classe 92, britannica, più famosa, forse soprattutto famosa per quel featuring su I Love It dell'icona pop, in cui c'è, cioè, che è assolutamente gratuito perché lei praticamente non c'entra assolutamente niente, però magari ci ha preso un sacco di soldi, e che è iniziato giovanissima, a 16 anni. Tantissimi singoli, EP, mixtape. True Romance è stato l'album del 2013 con cui, come si dice, ha fatto il botto. Tanti singoli come Super Love, Boom Clap, quasi insopportabile quel pezzo lì, anche perché mi pare che era una colonna sonora di qualche film. E poi questo singolo così buttato lì, Boys. Non so se è contenuto in questa sua ultima mixtape pubblicata da poco, si chiama Pop 2 e ho visto già su Pitchfork che ha dei voti altissimi. Insomma, la reginetta Mida del pop e sfila via. E dicevamo prima come Kelela quest'anno abbia avuto un sacco di soddisfazioni. Ha pubblicato il suo, mi pare, primo vero e proprio album, sì, dopo mixtape Cut For Me e un EP Hallucinogen. Noi abbiamo ascoltato qualcosa un paio d'anni fa, penso proprio nel 2015, perché l'abbiamo vista a Spring Attitude. E invece quest'anno pubblicazione del suo album Take Me Apart. E quest'anno appare anche in un pezzo di Humans dei Gorillaz, ma quello che stiamo ascoltando è al nono posto, è Frontline, appunto il pezzo di apertura dell'album, anche se appunto quella di prima, LMK, che ho nominato prima, Let Me Know, è anche molto molto gettonata, soprattutto per il video. Etiope americana di seconda generazione, è nata a Washington DC, bellissima pure lei, cioè dal vivo è incredibile, e che finalmente insomma riceve il successo che merita dopo una lunga gavetta. Adesso ha 34 anni adesso e ha iniziato come dei featuring, delle partecipazioni, insomma, cantando in pezzi di altri fin dal 2011. Nomi che con il passare degli anni sono diventati sempre più importanti, da Kindness nel 2014 a Boots, e poi 2016 Clams Casino, Danny Brown, Solange, e poi quest'anno dicevamo Gorillaz. Leggo che addirittura nel 2008 faceva parte di una band indie, Kelela Mizanecristos. Attualmente vive tra Los Angeles e Londra. Sì, non mi ricordo se in trasmissione avevo messo A Message o Rewind. A Message era prodotto da Arca. E come diciamo sempre, noi partiamo dalla classifica di Pitchfork, troviamo tante cose che conosciamo, scopriamo tantissime cose che non conosciamo, molte non ci piacciono, alcune ci piacciono, e ovviamente abbiamo tralasciato quasi tutti i nomi, no? Ovviamente, insomma, diciamo come siamo, insomma, autoreferenziali, per cui anche in altissime posizioni anche c'è SZA, che lei, giovanissima artista, il cui album è in altissime posizioni di tutte le classifiche, però noi abbiamo ascoltato dei pezzi e non ci piace, insomma. E quindi invece ci ascoltiamo Archie Marshall, per esempio, King Krull. Altra volta abbiamo detto che anche lui aveva un doppio pezzo già al 56 con Check One, mentre altissima posizione siamo arrivati al numero 7, questo è Dumb Surfer. Lui precocissimo ha iniziato come Zoo Kid nel 2010, ovvero 7 anni fa, se consideriamo che adesso ce ne ha 23, ha iniziato a registrare, a pubblicare a 16 anni. Zoo Kid, e invece l'album da cui è tratto questo pezzo come l'altro è The Ooz, quindi Zoo al contrario, che è al numero 3 della classifica degli album per Pitchfork, al numero 18 per, diciamo, quella generale, mentre il video di questo pezzo, dove lui suona con la sua band in formato zombie, è al 10º posto. Abbiamo nominato tantissimo ultimamente, a parte che l'abbiamo suonato, anche perché l'abbiamo visto dal vivo ad agosto, però appunto il disco non era ancora uscito, quindi non conoscevamo tantissimi pezzi. È difficile, a meno che non sei proprio in un club con calma, ascoltare bene, è difficile venire coinvolti in un festival, in un'area enorme all'aperto tra migliaia e migliaia di persone. Magari tornerà un'occasione, anche se l'abbiamo sfiorata, perché ha suonato pochi giorni dopo dei suoi compari Mount Kimby. Lui è proprio la musa ispiratrice di Mount Kimby, doppia presenza nell'album precedente all'ultimo, Lot What Survives, dove invece è presente con uno dei bellissimi singoli di Mount Kimby. E siamo arrivati a, mancano solo 3 pezzi più o meno, cioè 4 condensati in 3. Siamo arrivati alla posizione numero 6, siamo arrivati a Frank Ocean con un singolo pubblicato fuori dall'album successivamente al suo fortunatissimo Blonde. My guy pretty like a girl, and he got 5 stories to tell. I see both sides like Chanel, see on both sides Chanel, like Chanel. Swimming laps through pool, di cui si cita sempre la prima frase, dove dice: il mio ragazzo è carino come una ragazza, sempre per sottolineare il suo essere gender fluid. Grande caso quando aveva pubblicato una lettera in cui, insomma, raccontava la sua storia, praticamente raccontava di essere gay o bisessuale, insomma una cosa veramente molto coraggiosa, partendo dalla sua scena musicale all'epoca del grandissimo successo del 2012 con Channel Orange, che finì al 1º posto in tutte le classifiche musicali di quell'anno. Revenge in the air makes my lungs sick. Chopper in the sky like a gun trick. Clips on clips like Mike. It's really all. I see both sides like Chanel. See on both sides like Chanel. I see both sides like Chanel. La doppia C. Questa dualità. It's really you on my mind. It's really you. It's really you on my mind. Need both sides of the 12, need both sides of the L. Free smoke rings in their hell. Sleet snow grind for the well. Whole team diamonds is real. Show them how to shine by themselves. You need a cosign for your hell. I need a bitch to grind on my belt. I know you need to drive for my belt. I know you seen it drive in itself. No matte black on the ride, cause it's stale. But heart is down. I see both sides like Chanel. I see both sides like Chanel. My pocket's snug. They can't hold my 7. They ban my Visa. My Amex and MasterCards. I got new money and it's all cash. I got new bags and they all collapsed. Rubber band, a bunch of $1,000 Delta gift cards. I mean my baby Bart, amazing the cash online unknown. I mean my baby Bart, blazing the dash, got money at home. E sfila via Chanel di Frank Ocean. Arriviamo, diciamo, la reginetta dell'anno veramente è stata Lord. Anche lei ancora 21 anni da poco. Ovviamente le aspettative dopo l'esordio di Pure Heroin del 2013 erano, insomma, altissime, per questo che, insomma, ci ha messo un po', ma è tornata alla grande 2017 con Melodrama e questa canzone Green Light, che è il tormentone, Olivia ne sa qualcosa, che quando ti entra in testa non ce la fai più a tirartela via e vai. Ella Maria Lani Jelik O'Connor, neozelandese, nata a Takapuna. L'album Melodrama numero 5 per Pitchfork, numero 2, non penso che la situazione sia cambiata, quindi secondo album migliore dell'anno per tutti. E questo video invece all'11° posto per Pitchfork, un pezzo che parla, insomma, di una notte di sfogo, di eccessi, di alcol, di musica, di casino, per, insomma, farsela passare, insomma, pensando a un ex che continua, insomma, un po' a starti in testa come questa canzone. Lord, insomma, un po' arrabbiata per qualcosa che ha fatto, probabilmente un tradimento di cui è venuta a sapere, e dice: sì, non ti preoccupare, vengo a prendermi le mie cose, però, insomma, non riesco tanto a mollarti, a lasciare andare, aspetto questa luce verde, questo semaforo verde che mi dia il via libera per lasciarti andare. Mentre il re dell'anno, sicuramente 4 pezzi su 100, e al primo posto miglior album dell'anno in assoluto per tutti, per Pitchfork e per tutti gli altri, ovvero Kendrick Lamar, con il suo album Damn. E il pezzo che è più in alto in classifica è DNA, dove c'è un video che è il numero 5 nella classifica dei video, dove c'è Dan Cheadle, l'attore conosciutissimo insomma di faccia, mentre l'altro pezzo, l'altro singolo Humble, che era il numero 11, è al numero 2 dei migliori video. Kendrick Lamar, ovvero primo nome e secondo nome, Kendrick Lamar Duckworth, 30 anni, ormai insomma qualsiasi cosa faccia lui, qualsiasi collaborazione, qualsiasi partecipazione viene universalmente lodata, soprattutto dopo la consacrazione con Good Kid, Mad City del 2012. Mi ricordo abbiamo suonato qui in trasmissione un mix di 3-4 pezzi, perché l'abbiamo visto a Porto dopo To Pimp a Butterfly nel 2015 e questo Damn del 2017. E io poi mi vado a leggere i testi, sono densissimi. Sempre questo dissidio continuo tra il bene e il male, cercare comunque una trascendenza, una religiosità, però riconoscere il fatto di avere comunque del male dentro di sé. Questo. E l'abbiamo mixato con invece la reginetta della classifica delle canzoni dell'anno, ovvero Cardi B, Borac Yellow. E devo dire che sebbene non l'avessi ascoltata con molta attenzione, l'ho sentita alla fine poco tempo fa, sebbene questo pezzo sia uscito verso fine giugno, in una classifica di pezzi preferiti di Charlotte Gainsbourg, dove lei dice "Je l'écoutais en boucle", cioè l'ho ascoltata in loop un sacco di volte, perché fa parte della playlist condivisa di me e mia figlia. Devo dire che lei ha detto queste cose moderne, insomma contemporanee, poi vivendo a New York, insomma me le fa conoscere mia figlia. Per questo personaggio, 25enne del Bronx, anche l'altra volta abbiamo nominato il Bronx molto presente in questa classifica, che insomma proprio incarna il sogno americano. Cioè lei ha iniziato facendo la stripper in un club, lei è ispanica e nera, e poi è diventata una celebrity sui social media, credo Instagram, sì. E poi dal 2015 al 2017 ha cominciato a fare televisione su questi vari reality tipo Love and Hip Hop New York. Nel 2017 ha firmato il contratto con l'Atlantic Records e questo è il singolo di debutto che ha sfondato ovunque e soprattutto ha raggiunto il numero 1 della classifica di Billboard, la Hot 100 Chart. È stato dichiarato l'inno rap dell'estate, ma soprattutto la cosa importante è che lei è stata la prima donna negli ultimi 19 anni al primo posto, dopo Lauryn Hill con Do Up The Thing, credo, e quindi la seconda rapper donna della storia andare al primo posto. E il video è anche molto divertente, lei sembra e spero che sia anche molto autoironica. E comunque sì, questo pezzo è abbastanza ipnotico. Ed è così che finiamo, finito l'anno, finite le canzoni, finita la classifica. Non so quando ci ritroveremo. Ciao da Claudia Madimau.